e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, la cuffia è stata trovata. Eccola qua, non ancora. Però Deborah c'è, non parla perché la cuffia e i livelli sono un po' ballerini. Ma eccola qui, eccoci, siamo qua di nuovo insieme. Mamma mia. Ma quando mai siamo andati lontani? Qua siamo stati. Siamo incollati a questa sedia, io non lo so, guarda, questa azienda deve farci un monumento. Due bustini, dai. Esatto, io dico sempre che ci devono fare il bustino accanto al plastico di Renzo Piano qua all'ingresso. Bello, tu che materiale lo vorresti? Marmo di Carrara o in travertino? In cioccolato extra fondente. Anch'io voglio quello là. Chi passa da una piccola leccata. Sì, poi voglio andare sulle scale, cara mia, perché tu lo sai che oggi è la giornata senza ascensore? Tu lo prendi? Prendo quello che dal parcheggio sotterraneo per la macchina mi porta su, ovviamente, la mattina. Ma quando mi ricordo faccio anche le scale, sono un po'... 50 gradini, devi fare, sono l'equivalente di circa due rampe di scale per due o tre volte al giorno, con, attenzione, l'accortezza di farlo lentamente e poi appoggiando. Chi lo dice? Io lo dico. Non è vero, lo dice un nostro esperto, un nostro grande amico. Vabbè, ma io imparo a forza di sentire, lo dice Massimo Gualerzi. Vabbè, dai. Bravo, possiamo dirlo anche noi, infatti, perché ascoltiamo lui. Potete andare a sentire la vostra intervista, comunque la sua intervista. Comunque questa attività equivale a circa 30 minuti di camminata. In più rafforza i muscoli, Gualerzi dice anche le arterie degli arti inferiori, secondo me. Cosa volete? Snellisce anche un po', cioè tiene un po' su il gluteo. Se ci facciamo anche i famosi 10.000 passi accanto, bene. Però. Adesso però ci siamo mossi troppo. Fammi però ricordare che a proposito di ascensore, ricordiamo anche i rischi che si corrono nel caso in cui questi abbiano una cattiva manutenzione. Siccome noi ne abbiamo parlato di questo argomento, io invito i nostri ascoltatori a ripescarsi. Sono ancora ubriaca dopo aver cenato latte ieri sera. Nella puntata del 5 aprile potete recuperare il podcast e quindi basta, insomma, portiamo anche un po' di fieno in cascina per il nostro programma. Sì, cosa dobbiamo fare a Ulisse, secondo te, che ci scrive cosa sempre dei messaggi bellissimi d'amore all'inizio della trasmissione? Ulisse, lo salutiamo con affetto. Mandiamo una nostra foto. Così non scrive più. Ma magari ci ha anche già visto che siamo costantemente in diretta Facebook. Ecco, adesso Marco ha chiuso con la sua pannocchia, è andato. Il sommario per quello che riguarda i temi di denari: io oggi vi propongo telemarketing aggressivo e la nuova tassazione per gli affitti brevi, soprattutto per quelli che circolano su Airbnb e portali simili a questo. Tu, la tua ricetta allora, del giorno? Io vi questa parlo è un divertente po' di... il tema, il tuo, so già che scatenerà oggi l'inferno tra i nostri ascoltatori. Allora lo diciamo? Dillo, dai. Allora noi parliamo in fondo di acqua, diciamo così. Sì, cioè, anche chi... di chi la prende molto alla larga. Ecco, noi parliamo di acqua, di docce, di piedi, di ascelle, di bidet, ecco, di lavate, ecco, di dermatiti, di saponi, esatto, avete di igiene intima. Questa pratica malsana di lavarsi ogni tanto, ecco, qualcuno non e l'ha... E anche di puzze metropolitane, non solo. Chi prende i mezzi le conosce bene e quindi... Ecco, appunto, e adesso con l'arrivo dell'estate, quasi quasi che questa giornata uggiosa un po' meno placa. Guarda, meno male. Che cattivi odori della metropolitana. Partiamo, va? Allora, intanto la borsa, dopo queste giornate di brindisi per Emmanuel Macron, a suon di champagne naturalmente, perché essendo in Francia, che cosa vuoi che brindino là? Oggi la borsa è negativa a Milano, meno 0,6%, sono sulla parità invece le altre piazze europee, Londra, Parigi e Francoforte, ma d'altronde Milano è quella che ha guadagnato di più negli ultimi giorni, quindi oggi si ferma. Vanno però molto bene i titoli del lusso e della moda, del fashion: Moncler più 3, Yoox Net-a-Porter più 2,49, Salvatore Ferragamo più 1,74%. Si guarda presumibilmente anche questa operazione di Elvemash, che compra il 100% di Dior, ne fa un unico brand del lusso, insomma meraviglioso come tutti quelli che piacciono a noi donne. Detto questo, però, questo è un tema finanziario. E poi Wall Street ieri sera di nuovo l'ennesimo record, in particolar modo per il Nasdaq, il listino tecnologico, oltre 6.000 punti, livello che non ha mai visto nella sua storia, per cui il mercato americano continua a correre, tutti in attesa attesa della riforma fiscale di Trump, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo, alleggerisce a quanto pare la pressione fiscale sulle imprese, e quindi siamo molto curiosi di vedere che cosa ha in mente di fare. L'euro è a 1,09 sul dollaro, ha continuato a flirtare con questo livello per giorni e oggi lo ha riagguantato. Tutti questi temi li affronteremo molto nel dettaglio domani a Investire Informati con Vittorio Gaudio di Banca Mediolanum. Per la nostra rassegna stampa oggi, per l'approfondimento della rassegna stampa, diamo spazio ad una notizia che riguarda ancora una volta la battaglia che è ingaggiata in via ufficiale dalle associazioni dei consumatori, ma che noi ingaggiamo ogni giorno a vario livello, contro il telemarketing aggressivo. Ancora una volta c'è il tentativo di dire basta a queste continue chiamate che riceviamo sia sul telefono fisso sia sul cellulare in qualunque momento della giornata da parte di aziende che sollecitano acquisti, sottoscrizioni di contratti di vario tipo. L'autorità garante del mercato, l'antitrust, ha avviato due procedimenti istruttori contro le due più grandi aziende di telecomunicazioni che operano in Italia, ma una è di carattere proprio internazionale, Vodafone, forse una delle più grandi player a livello mondiale, e contro Telecom in merito proprio all'attività di telemarketing. Ne vogliamo sapere qualcosa di più con il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, l'avvocato Massimiliano Dona, che salutiamo. Ben ritrovato, buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno Presidente. Allora, non è la prima volta che un'autorità interviene contro questo fenomeno, in realtà ne raccontiamo molto spesso, o la GCOM o l'antitrust sanzionano, multano, e eppure continuiamo appunto a ricevere queste telefonate. Prima di spiegarci quali sono le nuove proposte, le nuove iniziative che intendono prendere le associazioni dei consumatori per appunto invitare i consumatori a tutelarsi contro il telemarketing, ci dà qualche dettaglio in più rispetto a queste due istruzioni? Per che cosa sono state avviate, che cosa hanno fatto di nuovo queste due grandi compagnie per meritarsi di nuovo l'attenzione dell'antitrust? Ma non hanno fatto nulla di nuovo, in realtà è l'antitrust che ha cambiato un po' la prospettiva, nel senso che fino ad oggi si era occupata principalmente di sanzionare i call center, cioè quelle aziende che poi di fatto incaricano i loro addetti di chiamarci a tutte le ore del giorno, tanto sul telefono fisso quanto sul cellulare, quindi arrecandoci notevole disturbo. Il problema è che questo tipo di sanzioni rispetto ad operatori relativamente piccoli, talvolta addirittura con sede all'estero, quindi difficilmente raggiungibili, aveva uno scarso potere dissuasivo, diciamo così. Avvocato Dona, noi la sentiamo malissimo, o magari in una caverna, non lo so, se ha l'auricolare o un viva voce, le chiederei appunto di avvicinare in realtà la cornetta alla bocca, che forse è meglio, o se allora già lo faceva questo, ecco, perfetto. Il problema, ottimo. Mi avvicino ulteriormente. Dicevo, il punto è che queste condanne verso i call center erano scarsamente efficaci, come dimostra il fatto che abbiamo continuato ad essere disturbati in questi anni praticamente a tutte le ore. Cosa cambia questa iniziativa dell'autorità garante della concorrenza? Beh, di fatto va a colpire gli operatori di telefonia, cioè queste due grandi compagnie, appunto Telecom e Vodafone, che sono poi coloro che danno l'incarico ai call center di chiamarci. È un cambio di prospettiva da questo punto di vista che noi in qualche modo abbiamo auspicato, ritenendo che così si possa effettivamente frenare, se non escludere per il futuro, il fenomeno delle chiamate indesiderate che davvero disturba in modo molto profondo i consumatori. I nostri sportelli sono pieni di segnalazioni, al punto che abbiamo lanciato una fortunata petizione che è ancora online sul nostro sito consumatori.it, che abbiamo chiamato Non disturbarmi, proprio perché davvero l'irritazione dei consumatori è a livelli mai toccati in passato. Esatto, poi a parte fosse solo quella, perché al limite uno anche con un po' a volte di maleducazione purtroppo respinge al mittente queste telefonate. Il tema è che quando dopo queste telefonate chi non è in grado di intavolare una conversazione con un operatore, questo è particolarmente convincente e persuasivo, si ritrova a casa il contratto, e questo capita soprattutto agli anziani, perché sulla prima parte magari alla fine ci possiamo anche tutelare. Il tema è quando arriva questo secondo passaggio e poi chiudere questi contratti, disdettarli, diventa molto complicato. Voi avete fatto una serie di richieste alle autorità, avvocato Dona, in particolar modo c'è quella di e mi preme appunto spiegare questo passaggio, potenziare il cosiddetto registro pubblico delle opposizioni, che è quello strumento al quale potersi iscrivere per chiedere di non ricevere più queste chiamate appunto indesiderate. Ma abbiamo molto spesso appunto raccontato di come in realtà non funzioni, perché viene aggirato molto facilmente dai call center incaricati dalle società. Come intendete fare per potenziarlo? Che cosa avete proposto? Se ce la facciamo in un minuto, limite, grazie. Il primo limite del registro pubblico delle opposizioni è quello che non possiamo iscrivere i numeri di cellulare, quindi non possiamo escludere le chiamate sul cellulare. Secondo la normativa attuale si possono iscrivere soltanto i numeri fissi, ed è chiaro che invece molto disturbo ci arriva proprio sul cellulare. L'altro tema è quello della corresponsabilità tra i call center e gli operatori, e speriamo che questa iniziativa dell'autorità antitrust serva proprio a sciogliere questo nodo. Insomma, ai call center i numeri telefonici li danno gli operatori, e quindi è il caso anche di indagare se ci sono comportamenti scorretti in capo ad aziende così rinomate come Telecom e Vodafone. Chiaro. Allora, intanto volevo solo leggere un messaggio su WhatsApp di un ascoltatore, chiaramente una notizia da verificare perché io non la conosco, ma se ce lo racconta evidentemente nel suo caso funziona. Un ascoltatore ci racconta che ha scaricato una app gratuita che blocca tutti i numeri indesiderati e viene consigliata anche dalla polizia per chi ha problemi addirittura di stalker. Questo, il nome di questa app è Truecaller, quindi verificheremo, il chiamante, esatto, lo verifichiamo, ci allega anche il link, ma se ci dice che è suggerito dalla polizia, lei lo conosceva, avvocato? Sì, questa, ma ce ne sono diverse, bisogna comunque avere uno smartphone, esatto, se non ha uno smartphone chiaramente resta, esatto, dal telefono fisso, in ogni modo, esatto. Ma insomma è il caso di far cessare questa aggressione. Il, come dire, l'anziano subissato di telefonate, soprattutto a pranzo e cena, ecco, come capita spesso, e non si può difendere con queste modalità. Avvocato Donna, ci aggiorni naturalmente sulle vostre iniziative, intanto grazie e buona giornata. Grazie a voi, buon pomeriggio. A presto. Grazie. Noi ci fermiamo, adesso c'è il traffico e poi andremo ai nostri temini di cuore. Andiamo. E non solo. Cuore e denari. Le strade erano libere evidentemente. E siamo ritornati noi. Ci siamo mangiate anche il traffico. Il traffico più veloce del West, è stato il collegamento proprio. Vedi. Flash Gordon, lo ribattezzerei. Cuore e denari piglia tutto. Esatto. Ma ce lo meritiamo. Vai, e vai, abbiamo eliminato anche il traffico. Che cosa possiamo dire? Traffico costante. Che siamo due vivere. Allora, che cosa? Allora, ne approfitto per raccontarvi che un gruppo di esperti ha stilato una vera e propria classifica delle diete che, se rispettate, apportano grandi benefici alla salute. Arriva dall'America, ogni regime alimentare, nel 2017 ne sono stati considerati 38, viene valutato in base a dei parametri, ad esempio, alla facilità con il quale può essere seguito, alle proprietà nutrizionali, alla sicurezza, all'effettiva capacità di far perdere peso e anche alle potenzialità che possiede nell'incidere positivamente su diabete e patologie cardiovascolari. Allora, voi se vi siete messi a dieta o avete in qualche modo cercato di correggere il vostro stile alimentare, perché lo avete fatto, perché lo state facendo, per stare meglio, per perdere peso, che altro? 800 24 00 24. E quale dieta state seguendo? Facciamo anche noi una sorta di classifica in diretta, Deborah, con i nostri ascoltatori. Per in America la classifica è la seguente: dieta migliore da 7 anni a questa parte è la dieta DASH, seguita dalla dieta mediterranea e poi dalla dieta MIND. Allora, in linea con noi è tornato a trovarci il professor Luca Piretta. Buongiorno, siamo molto contente. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah, grazie per avermi chiamato. Spero di non essere veloce come il traffico, cerchiamo di parlare un pochino di più. Ha già parlato di più, per cui in realtà si è già messo in pari. E dice, se no mi prosciugano. Gastroenterologo, nutrizionista e docente al campus biomedico di Roma. Allora, professore, che cosa le dice questa classifica? Iniziamo dalla prima in classifica, la dieta DASH. Piace molto, evidentemente, sempre, è da 7 anni che vince questa, è al primo posto di questa classifica. È una dieta particolare che agli americani sembra piaccia molto. Perché e che cosa fa? Allora, intanto io dico che non mi fido mai delle abitudini americane da un punto di vista alimentare, perché devo dire che non sono un buon esempio se poi andiamo a guardare gli indici di obesità e di sovrappeso, che sono i più alti del mondo. Quindi gli americani hanno un po' questa tendenza a prendere gli alimenti, togliere delle cose, quindi fare gli alimenti del senza, poi pigliare altri additivi, altre altre cose, aggiungerli ad altri alimenti per farli arricchire con omega 3 e con altre cose. Quindi io le loro abitudini devo dire che non sono mai, secondo me, il massimo dell'eleganza da un punto di vista dietologico. Detto questo, la dieta DASH, che da questa inchiesta risulta essere la più utilizzata dagli americani, ha dei grossi vantaggi da un punto di vista salutare per ciò che riguarda l'ipertensione, perché nasce come strategia dietologica per combattere l'ipertensione e di conseguenza è una dieta molto povera di sale, e questa è una cosa positiva anche per noi italiani, che secondo le indagini Istat facciamo un abuso quasi 3 volte più di quello raccomandato del sale che utilizziamo nella nostra alimentazione, quindi è una dieta molto utile da seguire, più ricca in potassio e magnesio, che sono invece dei minerali che servono a tenere la pressione bassa, e di conseguenza è sicuramente una dieta consigliabile per le persone che devono combattere l'ipertensione. Allora, professore, non la faccio cadere come le informazioni sul traffico, perché vorrei richiamarla, perché noi non la sentiamo molto bene. Abbiamo avuto lo stesso problema con l'avvocato. Allora è colpa nostra. Allora, siamo noi. Non ha voluto fare il traffico. Intanto richiamiamo dalla regia il professor Piretta, perché vogliamo, come si dice, sentirlo forte e chiaro. Intanto ci stanno già arrivando i WhatsApp. Ma non solo, anche telefonate. Sto vedo. Seguendo una dieta da quasi 3.000 calorie al giorno. Professor Piretta. Eccomi, sono qua. Bello. Vado meglio così? 3.000. Sì. Bello, bello, bello. Allora, intanto si stanno scatenando i nostri ascoltatori chiedendo per sottoporci un po' i loro regimi alimentari. Ma, allora, abbiamo detto, la dieta americana non ci piacciono tanto, non vogliamo seguire tanto gli americani. Forse hanno poco da insegnarci, almeno dal punto di vista dell'alimentazione. Non c'è dubbio. Posso spingermi fino a lì? Sì, sì, sì. Si spinga. Mi spingo, vado. Comunque il sale, riducono il sale, questo lo sappiamo anche noi, per tenere sotto controllo la pressione. Arriviamo alla seconda, noi siamo al secondo posto, dieta mediterranea, è un grande classico, tutti ne parlano, pochi la conoscono e pochi la seguono, professore. Purtroppo è proprio così, anzi le statistiche ci dicono che i paesi del bacino mediterraneo dagli anni 60 ad oggi sono quelli che più si sono allontanati dal modello mediterraneo, e il paese che più si è avvicinato, pensate, è l'Iran e i paesi scandinavi subito dopo. Quindi noi dovremmo parlare meno e fare di più, no? Questo è forse il messaggio, che poi in realtà se uno va a vedere sia la dieta DASH che la dieta mediterranea che altre diete semi-vegetariane o anche vegetariane, alla fine ruotano a 2 o 3 principi che, se noi riusciamo a farli nostri, ad applicarli nel quotidiano senza impiccarci a contare le calorie e le porzioni, faremo una cosa molto semplice e molto salutare, ovvero far sì che la base della nostra alimentazione sia fatta da frutta, verdura e cereali. Se noi già impariamo questo cardine, già faremo un grosso passo avanti. Riuscire a capire che quella deve essere la fonte principale delle nostre calorie e dei nostri nutrienti, frutta, verdura e cereali. Poi il resto viene dopo, cioè cos'è il resto? Il resto è il pesce, il resto sono i formaggi, il resto è la carne anche 1 o 2 volte a settimana. Questo è diciamo l'appendice, il nocciolo della questione che noi dobbiamo seguire. Questo lo dicono i dati scientifici che appoggiano la dieta mediterranea, che è quella più ricca di evidenze scientifiche. Ci dicono che la base della nostra alimentazione deve essere fatta di questi alimenti. Poi va aggiunta un'attività fisica, va aggiunta un'adeguata assunzione di acqua, e se noi riusciamo ad applicare questi pochi principi senza interessarci più di tanto di tutte le notizie che ogni giorno compaiono, perché il problema è che il consumatore viene sballottato. Oggi sente dire che se mangiamo 3 noci non ci ammaliamo più, domani sente dire no, le noci no, invece dobbiamo mangiare le mandorle, 4 pinoli. Il giorno dopo sono no, la carne no, ma forse la carne, però perché così prendiamo tempo, professor Piretta. Allora no, come quando si deve studiare, dai, allora facciamo il piano, no, facciamo oggi un capitolo, domani, oppure che cosa, intanto si parla, si va avanti, si prende un po' tempo e la dieta non si fa. Paolo, buongiorno da Bari, benvenuto. E poi non è più corretto, no, parlare di dieta, ma insomma stile di vita, regime alimentare, perché la dieta tiene sempre ad uno scenario un po' di sacrificio, di riduzione e privazione, quindi noi l'abbiamo debellato questo termine. Paolo, buongiorno da Bari. Buongiorno a lei. Paolo, abbiamo eliminato il traffico, ma se lei si prende queste lunghe pause dobbiamo eliminare anche lei, e mi dispiacerebbe. Vada. No, ecco. Per carità, stavo ragionando su quello che avete appena detto, quindi stavo cercando un po' di fare mente locale. Io cerco sempre di mettermi a dieta, ma non riesco mai ad avere risultati efficaci. Quindi sarà un po' la mia alimentazione disordinata, il fatto che sono sempre in macchina. Non faccio moto e alla fine purtroppo... basta. Allora, Paolo, perché noi diciamo devo stare a dieta? Io vorrei dire, mi piacerebbe, come mi ha detto un'amica, ha detto io ho deciso di stare meglio e allora ho iniziato, ho corretto un po' l'alimentazione, ho cercato di mangiare meglio. Forse anche questo modo diverso di affrontare il nostro stile alimentare ci aiuta a fare dei cambiamenti. Perché dire, mi metto a dieta, uno dice, allora non posso vedere gli amici, devo rinunciare all'altra. Altro a chi ne ha voglia. Professor Piretta, una cosa giustissima, sono d'accordo. Noi arriviamo sempre dopo, no? Quando sono in sovrappeso, quando sono obeso, devo fare un qualcosa per rimediare. Il discorso va ribaltato, noi dovremmo pensare prima cosa fare per rimanere in salute. Poi si può anche dimagrire se si è ingrassati, però il problema fondamentale è cercare non tanto di misurare la bontà di una dieta sul numero di chili che ci fa perdere, ma sul fatto di come noi possiamo, mangiando in modo corretto, prevenire la comparsa delle malattie. Questo è il vero segreto. Invece purtroppo leggiamo su riviste, su programmi televisivi, su media, eccetera, che l'unico obiettivo delle diete è quello di far perdere peso. Questa è migliore, quella è peggiore, perché mi ha fatto perdere più o meno chili in tot tempo. Invece noi dobbiamo pensare al discorso di salute. Di salute, come vogliamo stare bene, stare meglio. E non è detto che fare la dieta voglia dire rinunciare, non è assolutamente detto. Sono le diete drastiche, quello che corre all'ultimo minuto per chi si mette oggi a fare la prova costume, si trova a fare una dieta privativa. La prova costume va fatta a Natale, io questo lo dico sempre, invito tutti a Natale, sotto l'albero, mettetevi in costume. Allora avete sei mesi di tempo allora, per porre rimedio. Professore, chiudiamo con l'intervento di Andrea Dall'Aquila, che potrebbe funzionare come uno spot. Andrea, ha un minuto di tempo, se lo giochi. Buongiorno. Volevo dare la mia conferma diretta che una sana dieta mediterranea, io da un anno che ho iniziato, unita a un'attività di Nordic Walking per 3 volte a settimana, da 50 minuti l'una, mi ha consentito di perdere 15 kg di peso. Ecco, e non è che ha fatto questo sacrificio inimmaginabile, anzi. No, nessun sacrificio, soltanto sono andato da una nutrizionista che mi ha insegnato a mangiare, non rinuncio a nulla quando esco con gli amici, ovviamente in maniera moderata, una volta a settimana, però più che perdere peso si ha un ottimo benessere psicofisico. Grazie, mentale. Grazie ad Andrea. Professor Piretta, grazie anche a lei. Rispondo grazie solo a Gianluigi, concittadino di Debora. Perché non parlate anche delle anoressiche, di chi deve prendere peso e non solo di chi lo deve perdere? Chiedetevi che effetto fa una trasmissione come la vostra su un'anoressica. Allora, a Gianluigi invito ad andare a sentire gli interventi di Erzegovesi. Abbiamo parlato di disturbi del comportamento alimentare, ci torneremo. L'anoressia è un problema di salute, è un disturbo del comportamento alimentare, quindi è una vera patologia. Noi cerchiamo di consigliare con i nostri esperti invece lo stile alimentare che promuove il benessere. Grazie a Gianluigi per questo appunto, grazie al professor Piretta, vi salutiamo e andiamo a sentire il nostro GR. A tra poco. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie di grande intensità, il falco e il gabbiano. Johnny Thunders, uno dei precursori del punk, eroe maledetto del rock. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare la storia del dottor Jekyll e del suo terribile alter ego, Mr. Hyde. E poi colpi d'ala verso l'alto e verso il basso di una grande star del cinema, John Travolta. E poi la storia di un misconosciuto eroe che ha fatto sognare la Calabria, Massimo Palanca e i suoi gol. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Cuore e denari. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori. Chissà come come la pagano lì la tassa sull'affitto se in Canada una seconda abitazione la mettono appunto in locazione, magari facendola, veicolandola tramite Airbnb? Allora, attenzione cari amici proprietari, perché dal 1 giugno tutti coloro che affittano casa con l'affitto breve tramite Airbnb, scomodiamo sempre questo brand, ma ce ne sono anche altri che fanno un'attività simile, pagheranno il 21% di cedolare secca che verrà direttamente trattenuta dall'intermediario, appunto in questo caso questo portale. Questa è la novità per una tassa che esisteva anche prima dell'ultimo provvedimento governativo che è stato varato dalla cosiddetta manovrina di primavera, sulla quale è stata messa la firma del Presidente della Repubblica proprio un paio di giorni fa. Ma in realtà pochi la versavano. Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Sei il nostro esperto della casa. Grazie, vedi che ormai mi considera anche un uomo. No, Cristiano, stavo pensando che tu scrivi tantissimo sul tema della casa, fiscalità, ristrutturazione e quant'altro, gli argomenti ne hai proprio, non te ne mancano, ecco, ce ne hai uno al giorno. Allora, c'era davvero questa giungla normativa attorno a questo argomento? Affitti in breve, fiscalità. Cosa significa che prima in molti la facevano franca, se i pagamenti erano comunque intermediati attraverso questi portali? Com'è possibile che ci si riuscisse a sottrarre al fisco così facilmente? Ma allora, la giungla normativa non c'era, diciamolo, nel senso che le regole erano chiare e lo erano già da tempo, e si poteva applicare già in precedenza la cedolare secca e molti lo facevano. Poi che cosa succede? Come sempre accade, la tentazione fa l'uomo ladro, e i contratti brevi, ricordiamo che fino a 30 giorni non c'è l'obbligo di registrazione del contratto presso l'ufficio delle entrate, quindi contratti quindi per tre giorni di affitto di una camera. Esatto, io posso anche non registrarlo, quindi in qualche modo diventa più facile per chi vuole evadere le imposte sottrarsi all'obbligo di pagamento. Non abbiamo ovviamente delle misure certe di quanti non versassero le imposte, però diciamo che questo meccanismo che viene introdotto con il decreto legge che è andato in Gazzetta Ufficiale ieri l'altro, il decreto legge 50, la cosiddetta manovrina, fa sì che venga applicata dagli intermediari che operano sia online ma anche fisicamente, quindi anche le agenzie immobiliari a cui si dà magari l'incarico di affittare la propria casa al mare, ecco, anche loro saranno soggette a questo obbligo. Quindi qualunque intermediario la fisico... La chiamano la tassa Airbnb perché certo, è il caso emblematico, Airbnb però... È il fenomeno nuovo, è esploso negli ultimi anni, è molto utilizzato. Quindi però... non è che adesso andando dall'agenzia vi sottraete all'obbligo fiscale perché non la mettete più su Airbnb come vetrina. In realtà, attenzione, perché si paga. Possiamo ricordare certamente che dalla nostra casetta, perché questa è la nostra casa, noi siamo in diretta Facebook. Ah, sì, è vero. E c'è Cristiano, che così che i nostri amici salutare. Possono bene. Dare un esatto. volto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, scriveteci. Benissimo. Perché così scrivono anche le loro domande. Assolutamente. No, tra l'altro le domande potrebbero essere anche tante, perché do qualche cifra. Lo scorso anno sono state circa 200.000 le case affittate per brevi locazioni turistiche usando i canali informatici, questa fonte di scenari immobiliari pubblicati dal Sole 24 Ore. Airbnb ha circa il 55% del mercato. Il guadagno medio annuo per proprietario al netto dei costi di vendita del servizio della gestione è stato stimato in 2.300 euro. Significa un totale di poco inferiore a mezzo miliardo di euro di mercato complessivo, e quindi la tassazione inciderà in questa nuova modalità per circa 100 milioni di euro. La stampa aveva anche altre cifre, però insomma un mondo cifre di forte movimento. Certo, diciamo che quello che cambia, che cambierà anzi, perché ovviamente le disposizioni non sono ancora in vigore, è che questi intermediari, che siano online o che siano fisici, dovranno effettuare loro una ritenuta sulle somme che incassano dall'inquilino. E quindi questa ritenuta sarà pari al 21%, e se io, facciamo l'esempio semplice, ho dato in locazione la casa per 1.000 euro, me ne vedrò accreditati 1.000 meno il 21%, quindi appunto verrà fatta questa trattenuta. Dopodiché toccherà a me, nel caso, decidere se voglio optare o no per la cedolare secca. Se nella dichiarazione dei redditi opto per la cedolare secca, quel 21% esaurirà l'imposta sulla locazione. Se invece in dichiarazione dei redditi, per n motivi che possono esserci, adesso non andiamo a vedere quali, io non ho interesse o convenienza a optare per la cedolare secca, quel 21% sarà un acconto dell'IRPEF, e io semplicemente, andando a versare le imposte l'anno successivo come si fa normalmente, andrò a conguaglio e aggiungerò la differenza che devo pagare. Quindi primo punto punto da precisare, il 21% di cedolare secca è opzionale, ma ho anche appunto l'alternativa al versamento delle aliquote, certo, certo, IRPEF tradizionali. La cedolare è sempre un regime facoltativo. Infatti, allora intanto non abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori che siamo in diretta, naturalmente proseguiamo la diretta come ci siamo state in questi giorni di festa. Se avete tra le fonti di reddito anche quello da locazione breve o brevissima di un vostro immobile, ma dal punto di vista fiscale non avete ancora capito bene come potervi orientare, perché fino a questo momento effettivamente c'è stata un po' di, non dico giungla fiscale, ma un pochino di confusione, comunque un regime non totalmente trasparente c'è stato, allora ci potete chiamare all'800 24 00 24 oppure scriverci al 349 238 6666. E avevamo questa simpatica ascoltatrice dalle Canarie, da, sì, da Fernanda, dove? Ci scrive sempre, che? Adesso un attimo perché sono arrivate, lo devo ancora ripescare, però aveva, ci raccontava che cosa succede da lei, dicendo che insomma noi cerchiamo in Italia, complichiamo sempre la situazione. Se voi intanto allora che tu cerchi il messaggio dettagliato, facciamo, Cristiano, un riassunto delle puntate precedenti di questa lotta all'evasione fiscale nel settore delle locazioni, che hanno portato appunto i portali come Airbnb a diventare sostituti di imposta. Allora, lo dicevamo poco fa, chiaramente non è che fosse impossibile prima affittare un proprio immobile per periodi brevi o brevissimi. Appunto, come funzionava per chi voleva naturalmente essere completamente in regola con, certo, il fisco. Diciamo come funzionava e come funziona ancora, perché se io metto un annuncio su una rivista o su una bacheca e trovo l'inquilino senza che ci sia un soggetto che fa da mediatore e riscuote il canone per me, io continuo ad applicare le regole che applicavo in precedenza. E quindi quali sono queste regole? Intanto, se il contratto ha una durata fino a 30 giorni, non lo devo registrare alle entrate. È il primo punto. Questo significa che avrò un contratto che è sempre meglio redigere per iscritto a propria garanzia, quindi avrò un contratto scritto con il mio inquilino, incasserò il canone nelle modalità concordate, potrebbe essere anche in via anticipata o metà all'arrivo e metà alla partenza. Una volta incassato il canone, non ho altri obblighi dal punto di vista fiscale, se non quello nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, quindi immaginiamo che sia estate 2017, nella dichiarazione che presenterò nel 2018 andrò a indicare l'ammontare del canone che ho incassato e potrò, facendo semplicemente una crocetta in una casella, scegliere se applicare o no la cedolare secca. E questo risolve, diciamo, i profili fiscali. Quindi è molto semplice. Se le il cifre contratto da indicare, nel senso il canone d'affitto che viene chiesto al possibile inquilino di questo affitto breve, appunto. Chi lo stabilisce? Lo stabilisce il proprietario e poi come viene denunciato, insomma, cioè La cifra che viene a circolare. Certo, la cifra è quella indicata nel contratto. Naturalmente, ecco, l'indicazione per gli inquilini che vogliono fare le cose in regola è quella di pagare con mezzi tracciabili. Ecco. Ovviamente pagare con un bonifico rende già molto più difficile che il proprietario poi non dichiari. Ovviamente poi è chiaro che sta alla correttezza delle parti, ma questo accade, diciamo, un po' sempre, nel senso che poi in teoria, anche quando il contratto è registrato, si potrebbe registrarlo per una somma più bassa. Insomma, dobbiamo capire che questa è la normativa. Però diciamo che quando siamo sui contratti brevi, questa è la disciplina. E tra l'altro diciamo anche una precisazione: chi conosce la cedolare sa che bisogna sempre comunicare all'inquilino la scelta o per raccomandata o indicandola nel contratto. Sì. Quando i contratti durano meno di 30 giorni non c'è neppure questo adempimento, ovviamente. Se invece il contratto ha una durata superiore ai 30 giorni, allora in quel caso si ricade nelle regole ordinarie. Quindi il contratto va registrato, fosse anche un contratto di 2 mesi per l'affitto di una casa estiva, va registrato, e in quel caso la scelta per la cedolare va fatta subito al momento della registrazione. Quindi l'opzione va dichiarata immediatamente a chi? All'Agenzia delle Entrate. Perfetto. Il contratto si registra con il modello RLI all'Agenzia delle Entrate, fisicamente andando in un ufficio o online per chi possiede più di 10 immobili, e in quel caso nello stesso modello RLI con cui registro il contratto, posso anche optare per la Perfetto. Cedolare. Il nuovo regime invece opzionale di cedolare secca, se un proprietario decide di affittare un proprio immobile per periodi brevi utilizzando i portali che diventano adesso sostituti d'imposta, si parte con questo nuovo regime dal 1 giugno, Cristiano, allora, mi pare, no? Sì, si parte dal 1 giugno, è quello che sta scritto nel decreto. Tra l'altro consideriamo che 1 giugno è un termine molto ravvicinato, perché questo è un decreto legge. È un decreto legge che è andato in Gazzetta Ufficiale il 24 di aprile, sì, quindi l'altro ieri, e che, se pensate che va convertito entro 60 giorni... Già siamo al 1 luglio. Già siamo, diciamo, al 24 di giugno. Quindi rischiamo San di avere Giovanni. Un regime che entra in vigore, mentre magari si discuterà di modifiche a questo articolo Vabbè, di legge. Che noi se non le facciamo così le cose non siamo mai contenti. Esatto. Però insomma l'importante è avere qualche cosa di partenza. Esatto, che già diciamo anche una cosa, che tutti i dettagli sulle comunicazioni che dovranno essere fatte dagli intermediari, sia le agenzie immobiliari fisiche che dovranno attrezzarsi, sia i grandi operatori digitali, saranno contenuti in un provvedimento del direttore delle entrate. Quindi finché non arrivano i dettagli, la norma di legge non è operativa. Ecco. Poi che il provvedimento arrivi entro il 1 giugno è auspicabile. È tutto questo per far star tranquilli comunque i proprietari che in virtù di questa novità sanno già che preferiranno optare per la cedolare secca, dovranno stabilire un patto con l'intermediario, con il sostituto d'imposta, quindi con il portale, dovranno comunicare tra di loro. Secondo te come avverrà questa scelta? Io credo che farà praticamente tutto l'intermediario, nel senso che l'intermediario che oggi versa al proprietario tutto l'ammontare del canone al netto della propria commissione concordata, poi nel caso delle agenzie immobiliari magari c'è un fisso, insomma c'è una percentuale lì, insomma sono poi gli accordi commerciali, in futuro verserà tutto il canone al netto della commissione e al netto della ritenuta. Benissimo. Allora Fernanda, l'hai trovata? Trovata, ma allora Cristiano, Fernanda dalle Canarie, affitto una casa qui con Airbnb, a chiusura dell'anno mi arrivano 2 fatture, dei guadagni e delle ritenute. Quando faccio la denuncia dei redditi le inserisco, perché fare una legge all'italiana quando è così semplice? Perché siamo in Italia, verrebbe da dire, e non in un paese estero. Ma verremo a trovarla, Fernanda. Esatto, per prendere visione di questi documenti, perché professionalmente parlando ci interessa molto. Molto. Intanto all'800240024 ci hanno chiamato Alessandro da Firenze e Marco da Asti, la precedenza ad Alessandro, che si è messo in collegamento per primo. Benvenuto, grazie. Sì, buongiorno. Volevo portare la mia esperienza con Airbnb. Io l'ho usufruito 3 volte dei loro servizi, uno all'estero in Francia, è tutto andato a regolare, pagamento tramite bonifico, eccetera. Le 2 volte che l'ho usufruito in Italia è successo che l'hoster, che si chiamava Osichi, sì, dà in affitto la casa, sì, mi ha contattato dandogi una mail privata. Certo, per aggirare. Quindi è stato fatto tramite tutto, quando sono arrivato lì sul posto, in contanti, arrivederci, grazie. Vabbè, Alessandro, allora lì che cosa succede? Che Airbnb, così come gli altri portali, sono consapevoli anche del fatto che succeda questo, che quindi utilizzino i portali come vetrina per poi aggirare ovviamente tutta la relazione con i potenziali clienti, sì, proprio per sfuggire controlli, tracciabilità dei pagamenti e fisco. Però Alessandro, anche volte che funziona così. Certo, cioè, ma lei aveva sempre la facoltà di dire no, a meno che proprio non si fosse innamorato, capito, per forza. Ma insomma, se uno va lì che fa? Dice di no. Guardi, perché no? Per quale motivo? Però Vabbè, Alessandro, cioè lei poteva anche farlo, se non le piaceva il comportamento poco trasparente di questa persona, io non gliel'avrei consegnati tutti i soldi in nero, abbia pazienza, io. Dopodiché, se a noi sta bene continuare ad alimentare questi circuiti, è un altro forse problema. Il sospetto deve venire quando mandano una mail privata e quindi aggirano tutta. Alessandro, di conseguenza Alessandro forse doveva stare un po' in campana quando questo signore l'ha agganciato via mail. Infatti, diciamo perché poi mi magari scriveva quando... con una mail, va bene, ti faccio un bonifico ti faccio il bonifico e punto. No, ma non solo, no, in che questo invece caso vogliamo pagare... l'abbiamo sgridato un po' il povero Alessandro. E anche ai danni di Airbnb. perché il nostro ascoltatore. Ma Airbnb controlla, tra l'altro, se poi intercetta comportamenti di questo tipo, so che espelle dal, sì, dal anche portale. Perché Airbnb fa profitto, esatto, su chi passa tramite la propria piattaforma. Sì, se io invece la aggiro, in qualche modo faccio una frode anche non a chi hanno mi vita ospita. Lunga coloro che si comportano in questo modo, so che appunto vengono buttati fuori molto, molto facilmente. Quindi, detto questo, vabbè, insomma, tema che conosciamo, l'abbiamo denunciato, a noi non piace, poi chi è che lo vuole continuare ad alimentare, che faccia quello che ritiene. Marco da Asti. Buongiorno Nicolette, buongiorno Deborah. Eccoci qua. Eccoci qua. La mia domanda è la seguente. Io ho una casa in affitto su Airbnb, sita in Svizzera, e io pago per questo affitto le tasse direttamente in Svizzera, e poi con la documentazione che mi dà il commercialista regolarizzo anche la situazione in Italia. Sì. Quindi chiedevo in questo caso... Se abbiamo già, magari in base alla nuova norma, Cristiano, delle novità per casi di questo tipo. Credo, adesso vedremo poi i dettagli del provvedimento delle entrate, ma credo che in questo caso non cambierà nulla, perché stiamo parlando di un immobile localizzato all'estero. Non dimentichiamo che la cedolare secca come regime generale, opzionale, non si può applicare per i redditi di immobili affittati all'estero, perché lì ovviamente c'è un incrocio tra discipline di vari paesi. Quindi penso di poter dire che il nostro ascoltatore continuerà a fare come sta facendo adesso, proprio perché l'immobile appunto è in Svizzera. Senti, ribadiamo allora un po' l'ABC della novità che sta arrivando, che presumibilmente non partirà dal 1 giugno, ci vorrà qualche settimana in più per tutti i provvedimenti attuativi, misure circolari dell'Agenzia delle Entrate e quant'altro, ma in ogni caso vediamola dal punto di vista del proprietario e della persona che invece affitta, anche se in realtà ci interessa più capire quello che succede al proprietario, che deve essere in regola e trasparente, corretto fino in fondo con l'amministrazione fiscale. Allora, io ho una camera. Andiamo al caso proprio più semplice, quindi affitto brevissimo, non l'affitto di certo più di 2 notti a ogni 10 giorni, quindi affitti super brevi e veloci. Allora, fino a questo momento che cosa ci pagavo rispetto a questo introito? Non erano contratti sottoposti all'obbligo di registrazione, ma naturalmente erano contratti che portavano del reddito al proprietario. Esatto, erano contratti che io non dovevo registrare e continuerò a non dover registrare. Perché sono di... tempo inferiore ai 30 esatto. giorni. Ricordiamo una cosa, che se io con lo stesso inquilino supero i 30 giorni con più frazioni... In 6 mesi tipo. Esatto, devo andare poi a registrare, perché contano i 30 giorni nello stesso anno con lo stesso inquilino. Quindi 4 locazioni da 10 giorni, la quarta la registro. Lo devo sapere all'inizio? No, registro la quarta, quando sforo la data, perché potrei non saperlo prima. Il 30° giorno arriva accumulato. Esatto, sì, no, questa è una cosa che magari non tutti sanno. Ma fatto bene a ricordarlo, interessante, infatti non lo sapevo. Detto questo, io non devo registrare, quello che devo fare è tenere conto in modo preciso dei pagamenti che ricevo e sapere che fino a che non entra in vigore la ritenuta, li riceverò completi e dovrò andare a versare l'imposta l'anno prossimo. Quando entra in vigore la ritenuta, comincerò a riceverli al netto dell'importo. Perché della li paga l'intermediario. Perché sarà l'intermediario. Airbnb e fratelli, ecco. Esatto, a versarlo alle entrate. Ragionevolmente succede con tutte le ritenute. Se abbiamo opzionato la cedolare secca. No, anche se non l'abbiamo opzionata. Loro la ritenuta la faranno a prescindere. Perché in fondo la cedolare... Sempre nella misura del 21%, sempre del 21%, la secca. Perché il 21% è il minimo che io devo pagare. Se poi io non opziono per qualche motivo, perché devo pagare di più, magari per sfruttare delle detrazioni, quello poi lo deciderò io. Ragionevolmente succederà, perché succede con tutte le ritenute, che a febbraio dell'anno prossimo mi verrà mandata una certificazione unica in cui verrà certificato l'ammontare lordo e l'ammontare delle ritenute. Quindi quella certificazione mi farà anche da memo sugli importi. Chiaro. E io quegli importi li dovrò comunque indicare nella dichiarazione dei redditi, andando a scegliere la cedolare in dichiarazione dei redditi. Allora, Rita da Brescia, l'ultima domanda. Ultima cosa, dovrò stare attento nel 2017 quando andrò a fare la dichiarazione, perché di sicuro avrò degli importi che saranno soggetti a ritenuta e degli altri no. Quindi la prossima dichiarazione dei redditi bisognerà fare bene attenzione, perché ci saranno certi canoni con ritenuta. Un po' complicata. Sai quante puntate faremo con te? Guarda, non potranno sbagliare. Rita da Brescia, benvenuta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Il mio quesito è questo. Noi abbiamo una casetta in Sicilia e quest'anno, appunto, per il primo anno abbiamo deciso di metterla su Airbnb. Chi ha fatto l'annuncio, l'host, è mio figlio. Sì? Ma le proprietarie siamo io e mia sorella. Infatti. Allora, il mio quesito è questo. Se la cedolare secca viene trattenuta direttamente dagli Airbnb, la versa a nome di chi? A questo punto, di mio figlio e qui saremmo noi, io e mia sorella. Le saremmo... è piaciuta un sacco la sua domanda a Cristiano. Brava. No, perché ci sono molte situazioni in cui, perché... guarda, proprio una sera ad una cena con degli amici, oppure litigato con queste persone, perché avevano questa casa a Venezia meravigliosa, affittava questa figlia che non faceva nulla, e loro sostenevano che proprio perché, siccome la affittava lei e gestiva lei tramite Airbnb tutto questo ambaradan, loro in quanto proprietari non dovessero rispondere di nulla rispetto al canone e al reddito percepito da queste operazioni, anche a me risulta un po' strano. Purtroppo non è così, perché c'è una norma che sta nel testo unico delle imposte sui redditi, secondo la quale i redditi di fabbricati, come sono appunto quelli da locazione, devono essere dichiarati dai soggetti che hanno i diritti reali sugli immobili, okay, per intenderci. Quindi, se la casa, nel caso della nostra ascoltatrice, è sua e della sorella, sì, se non ho capito male, anche se il figlio è colui che la che gestisce, diciamo, a livello operativo l'affitto, il rapporto con Airbnb, diciamo, esatto, lo gestisce lui come host. I canoni vanno comunque dichiarati dalle due proprietarie per il fisco italiano. Poi, dal punto di vista operativo, vedremo cosa succederà nel provvedimento delle entrate, perché potrebbe anche darsi, visto che la situazione è abbastanza comune, che ci sia la possibilità per l'host, che non è proprietario, di indicare che comunque il reddito fa riferimento a un altro soggetto, perché, okay, questa è una situazione molto comune. Oppure pensiamo al caso di tre fratelli, uno solo fa i contratti e gestisce la casa perché lo fa lui, ma il canone va comunque dichiarato pro quota da tutti e tre, quindi bisognerà trovare il modo di raccordare questo passaggio. Cristiano, situazione fluida, ti aspettiamo presto per aggiornarci su questo tema. Abbiamo ancora tutto il mese di maggio per aspettare i provvedimenti appunto attuativi e poi la misura, la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ci chiarirà ogni dubbio. Intanto grazie per essere stato con noi, saluta tutti gli amici di Facebook. Noi andiamo a raccontarvi la borsa e poi andiamo al tema che oggi proprio non vedevo l'ora di perché affrontare. Perché nell'Airbnb c'è anche doccia, vasca, bagno. Sì, sì, esatto. Ecco, le usate? Le usate o non le usate? Bel tema. Andate di corsa. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Giorgio Michael, grandissimo. La canti anche tu? Wake Me Up, figurati, certo, era dei miei anni 80-90. Beh, wake è la canzone Before You Go Go, e fatti una bella doccia quando ti alzi, anche aggiungerei. È brava, perché è tra l'altro fa parte dei 20 brani che ricorrono maggiormente nelle liste musicali di Spotify, servizio di streaming on demand musicale dedicato proprio a chi ama canticchiare sotto la doccia. Era bello. Ma la cosa è, si mette sotto la doccia, la tiene accesa, l'accende, o invece la doccia sta sotto così per bellezza? Perché adesso va di moda non lavarsi o lavarsi molto poco. In linea con noi abbiamo il professor Antonino Di Pietro, finalmente, professore, buongiorno. Dove mi è stato buongiorno, tutti questi mesi? È un piacere anche per me ritrovarvi. Lo so, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis del gruppo ospedaliero San Donato, se viene qua noi siamo belle, fresche e profumate. Ah sì, questa è la cosa migliore, sì, perché se non ci si lava si puzza, quindi diciamo subito, mettiamo già subito le mani avanti. Non è così pericoloso, poi lo vedremo, ma l'importante è farlo bene. Ecco, quindi però professor Di Pietro, c'è anche la teoria, e lei oggi farà un po' da giudice, da super partes, anche se la sua posizione mi è sembrata subito chiara, anche perché un dermatologo non la puoi nascondere. Beh, il dermatologo va anche un po' cioè li spoglia e l'odorino lo sente. Quindi lei fa un appello praticamente, professor Di Pietro, lavatevi almeno prima di andare dal medico. Beh, questo direi che è un consiglio doveroso per noi dermatologi, ecco. Quindi sicuramente, no, ecco, bisogna dire con grande serietà che è vero, adesso c'è un allarme in quest'ultimo periodo per cui bisogna non lavarsi addirittura, lavarsi pochissimo. È un allarme tutto sommato ingiustificato, perché sulla nostra pelle convivono miliardi di microorganismi, che sono batteri, funghi, virus, acari, e insieme a questi anche tutte le nostre cellule che si rinnovano continuamente. Noi perdiamo miliardi di cellule ogni ora della nostra vita. tutte queste sostanze, quindi le cellule morte, questi batteri, misti al sudore e al sebo, se non vengono eliminati quando si accumulano sulla cute, vanno in putrefazione. Mamma soprattutto mia. Nelle zone dove si suda di più, e i dove piedi la pelle è un po' più prima grande. Di pranzo, tra le dita dei piedi, le dita dei piedi sotto le ascelle. È un po' una trasmissione schifosina oggi. Insomma, ecco. Beh, pensa allora, che c'è chi vive così, vedi un po' tu. Questo materiale, l'ascella macera. Ecco, diciamo che questo rappresenta un ottimo terreno per far crescere poi dei microorganismi che con facilità possono dare delle infezioni oppure indeboliscono ancora di più la nostra pelle. Ecco. Quindi una buona detersione corretta è utile. È utile. Senta, vedremo professore, però lava oggi, lava domani, no? La teoria dice che sembra la nostra pelle viene privata anche delle sue difese naturali, a poco diventa sempre più sensibile e delicata, insomma si arrossa, prude, secca, tira, sembra un po' chi pulito si vuol sentire un po' deve soffrire, perché ci sono persone che sono un po' allergiche all'acqua e non solo come scelta di vita, professor Di Pietro. Sì, sì, è vero, questo è vero, ma diciamo che a volte c'è anche una sorta di pigrizia. L'igiene, lavarsi implica anche una perdita di tempo, anche un certo impegno, va fatto nel modo giusto. E se a volte c'è un po' di pigrizia nel far questo, allora ecco, si viene meno a qualcosa che può essere invece importante. Sicuramente gli eccessi sono quelli che creano dei problemi e questo vale un po'. Ma per eccessi tutto. Cosa? Gli eccessi vuol dire ci sono persone che arrivano a lavarsi due volte, fanno due docce al giorno, tre docce al giorno, ecco, allora lì diventa pericoloso. Il tempo anche in cui si sta sotto l'acqua. Io prima sentivo qualche minuto fa fare la doccia, intanto ascoltare la musica, canticchiare, ecco, questo è piacevolissimo. Ma se si sta sotto la doccia il tempo di 3-4 canzoni, perché ci piace sentire l'acqua che ci cade in testa o addosso mentre cantiamo, per la nostra pelle può essere pericoloso, perché stare molto a lungo sotto l'acqua, e soprattutto se l'acqua è calda, questo è un altro elemento importante, troppo calda, questo rovina la nostra pelle. La disidrata perché rompe i legami che ci sono tra le cellule superficiali. Quindi rapide, docce rapide, così risparmiamo anche un po' di acqua. E Fulcopratesi è contento. Fulcopratesi contento che anche lui si lava poco. Per questo che ho citato lui. Io non lo so. Ecco, ma io mi chiedo, poi spesso persone che hanno un odore un po' particolare, cioè si avvertono, lasciano una scia, non se ne accorgono, cioè noi non sentiamo il nostro odore, professor Di Pietro. No, perché si crea una assuefazione. Questo vale al contrario per quelli che si profumano troppo. Sono alcuni che cominciano a profumarsi e poi si crea una assuefazione a quel profumo e allora esagerano perché devono sentirlo loro per primi, e sono quelle persone che quando entrano in una stanza bisogna quasi aprire la finestra perché è eccessivo quel profumo. Allo stesso modo, come quando uno comincia a puzzare, si abitua alla sua puzza e allora non la sente più. E gli altri invece l'avvertono. Ecco, ma gli altri l'avvertono, ma dirlo è difficile. Voi riuscireste a dirlo? 800 24 00 24, perché come fai a dire? Cioè, guarda, come si fa? Nicoletta, tu lo sai che se mi dovesse capitare non me lo dici, fatto ma un patto, ecco, per carità, è come la cosa tra i denti e tutte quelle situazioni lì, la cerniera dei pantaloni giù, no, me la mica, calza sbagliata, se non me lo dice mi arrabbio, se non me lo dice no, ma ci sono anche situazioni pratiche, pensate quando si va a provare degli abiti o delle camicette o una giacca, cosa a me è capitato a volte di dover provare una giacca piuttosto che un maglioncino, ed era stato indossato da chi, ecco apriamo quindi, apriremo poi col professor Di Pietro anche, adesso fa freddo, ma il tema sudore, perché per alcuni è un problema tutto l'anno, ma quando finalmente arriveranno le belle giornate si suderà di più e allora si aprirà il grande capitolo deodoranti, traspiranti, che cosa fare, perché tipi di sudore, quant'altro. Oggi sdoganiamo, dobbiamo solamente, professor Di Pietro, parlare di alito pesante. Oggi abbiamo detto tutto. Antonio, buongiorno da Torino. Questo è. Buongiorno a voi, buongiorno professore. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Io ho 68 anni, sono atletico e sono un nuotatore. E sono sempre, diciamo, almeno due o tre volte in piscina, quindi immerso nel cloro. E poi ci sono le docce, poi al mare non ne parliamo, sono sempre in acqua. Cioè. Però dopo un sapone molto semplice, che è il sapone di Marsiglia. Ecco, devo correggere qualcosa. Non sopporto gli odori, non sopporto le puzze, sarà perché sono abituato a essere pulito, ma non metto profumi, non metto nulla di strano. Metto solo il profumo della sua pelle, Antonio. Di Marsiglia. Antonio, allora, professor Di Pietro. Sì, il sapone di Marsiglia è un po' il sapone per eccellenza, è un sapone a cui facciamo sempre riferimento quando dobbiamo indicare un qualcosa per lavarci, per pulirci e che sia delicato. Ciò che è importante è che quando ci si fa la doccia l'acqua non sia troppo calda, non sia bollente. Come dicevamo prima, non bisogna stare molto a lungo, quindi è inutile insaponare, sfregare troppo a lungo la pelle, quello non serve. E evitare saponi, che non sono quelli di Marsiglia, ma molti saponi che fanno tanta schiuma, ecco, perché la schiuma è causata da delle sostanze, si chiamano tensioattivi, e questi tensioattivi, come sciolgono il grasso causando le bolle, sciolgono anche il sebo che c'è sulla nostra pelle, che invece deve difenderci, no? Dall'umidità e quindi anche dal lavaggio. Per cui i saponi devono essere delicati, e delicati vuol dire che devono fare poca schiuma. Quindi al bando i bagnoschiuma, i detergenti che fanno tutte quelle bolle, sì, che fanno tanto piacere, perché fa molto diva di Hollywood. Una volta poi negli hotel ci piace un sacco la fare, vasca, riempire con tutta la schiuma, esatto, e tipo lei con, sì, con la coppa di champagne. Di solito c'è anche un lui, ma chiudo. Marisa ci scrive: professor Di Pietro, l'aumento di pidocchi, scabbia, tenie, parassite vari, a questi ce ecco, l'eravamo scordati nelle scuole, sommario, secondo Marisa, è dovuto alla mancanza di igiene. Ma molti danno altre spiegazioni e ci chiede, forse per non offendere, cosa ne dite voi, professore? Allora, i pidocchi. Dunque, non c'entra. Allora, ecco. No, non c'entra questo, perché i pidocchi non si nutrono di sebo, non si nutrono di sudore o di sporcizia. I pidocchi si nutrono di sangue. Quindi i pidocchi, un po' come le zanzare, cadono sulla testa e cercano di entrare nei capelli, nella capigliatura delle persone, perché poi il loro fine è quello di succhiare il sangue. Sono dei vampiretti. Non interessa tanto se i capelli puzzano, hanno profumo, se sono grassi, secchi, non c'entra niente. Allora quello che interessa è andare a succhiare. Vanno al sodo, non vanno tanto per il sottile. Esatto, questa è la ragione per cui a me capita di vedere quotidianamente, ahimè oramai, perché a Milano ci sono molti casi di pericolosi, di ragazzi e di bambini che frequentano scuole altolocate in zone centrali, quindi scuole anche molto blasonate, che sono frequentate da classi sociali alte, no? Quindi sono dei bambini che mi arrivano sempre col vestitino all'ultima moda, un po' da principini, quindi, ecco, arrivano tutti ben in ordine, però poi c'hanno i pidocchi, ecco, e i pidocchi li prendono anche chiaramente le mamme, non perché sono sporche, ma perché i pidocchi, volendo succhiare il sangue, decidono di assaggiare anche quello delle mamme, e quindi chiaramente cadono sulla testa delle mamme. Quindi il pidocchio è democratico da questo punto di vista. Dai, non guarda in faccia a nessuno. No. Allora, adesso c'è ci sono le informazioni sul traffico. C'è Andrea dalla provincia di Treviso. Parleremo, sì, continueremo a parlare di igiene, anche di igiene intima, se ci sono delle accortezze, delle attenzioni particolari. Ma parliamo anche di chi proprio a contatto con l'acqua, o forse per effetto delle detergenti che utilizza, ha la pelle particolarmente secca, ad esempio agli anziani, particolarmente delicata, si arrossa, pensiamo ai bambini, o al grande capitolo delle dermatiti, e lo affrontiamo naturalmente con il nostro grandissimo esperto, il professor Di Pietro, pronto a darci soprattutto le novità, perché il professor Di Pietro ci dà sempre qualche novità. Avanti, avantissimo. Avanti, avanti, avanti, e avanti con il traffico. cuore e denari. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. E allora siamo tornati insieme, Carmelo è lì che se la ride, chissà quante se lui fa, quante docce fa Carmelo. Allora confessa, ma dai, 3-4 al giorno? 5. A settimana, no, alla settimana. Bene, dai, e voi? Bene. E voi doccia, perché doccia o bagno? Sì. Oppure come si dice, ci si lava oppure a pezzi? Preferite la sera o la mattina? Perché anche quello è un'altra bella battaglia, no? Ci sono anche lì correnti di pensiero diversi. E poi soprattutto che sapone, che detersivo utilizzate e la crema ve la passate perché avete la pelle che tira ed è secca? 800 24 00 24 per farci entrare nel vostro bagno, facciamo anche così e ci accompagna, veniamo accompagnate perché insieme a noi c'è il professor Antonino Di Pietro. Giovanni, buongiorno da Firenze, poi Andrea. Scusi, Giovanni, in realtà c'era prima Andrea. Stia lì, Giovanni. Andrea, buongiorno da Treviso. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io lo chiamo per due quesiti. Il primo è che ultimamente ho scoperto il sapone di Aleppo. Sì. Sapone a base di oli, quindi naturali, che uso diciamo regolarmente. Sia per lavare il corpo che per i capelli, ma anche come schiuma da barba, e quindi volevo sentire dal professore se è aleppizzato e si trova bene molto, sì, direi, perché la trovo ovunque. Sì. Ok, e la seconda? La seconda domanda riguarda più che altro mio figlio, perché gioca a calcio e gli è stata riscontrata una dermatite seborroica al cuoio capelluto. E chiaramente lui di docce ne fa una al giorno praticamente. Certo. E si lava tutte le volte i capelli. Esatto, volevo capire quali sono le strategie migliori in questo caso e i prodotti eventualmente più adatti. Mettiamoci insieme Giovanni, perché ha una segnalazione, perché anche Giovanni ci segnala qualcosa per il suo ragazzo. Giovanni, buongiorno. Sì. Anche noi, anche lei ha un ragazzo. Anche io ho un ragazzo, io ho il problema contrario è che lui è tipo gatto. E l'acqua non la vuole, no. E proprio scappa. Speriamo, speriamo che improvvisamente poi trovi una ragazza, perché poi quando si innamorano lo vedi. È quello, perché è quello, sono tutti profumati, mamma mia, poi troppo. È quello, io spero, ma non sembra che questa cosa, sembra che i maschi di oggi siano un po' così. Perché piacciono anche un po' i maschi buncioni, eh? Comunque Giovanni vedrà che cambierà. Intanto sentiamo ad Aloma da Puzza. Professor Di Pietro, allora. Sì. Beh, allora andiamo per ordine. Anche perché prima dicevamo, parlavamo dei bambini e degli anziani della pelle. In effetti i bambini e gli anziani hanno una caratteristica un po' che li accomuna, che producono meno sebo, anzi i bambini non ne producono di sebo, perché le ghiandole sebacee cominciano a funzionare con la maturità sessuale, cioè quando cominciano ad apparire gli androgeni, gli ormoni sessuali, e quindi con la pubertà. E difatti il sudore dei bambini cambia con la pubertà, no? Quando sono bambini non hanno odore, la pelle dei bambini è una pelle caratteristica per questo, mentre invece nella pubertà e nei primi anni di giovinezza, quindi tra i 12 e i 15 anni, quando cominciano a apparire gli ormoni sessuali, anche le ghiandole del sebo cominciano a funzionare, ed è il sebo soprattutto a dare un po' quell'odore caratteristico. Da adolescente. Ed è il caso probabilmente del figlio del nostro ultimo ascoltatore. Sì, di Firenze. Quindi la pelle dei bambini va sicuramente lavata con meno frequenza, perché si sporca meno, perché non c'è il sudore. Negli anziani più o meno la stessa situazione, perché diminuisce la quantità di sebo e quindi anche la pelle degli anziani diventa più delicata. Nel caso A proposito di pelle delicata, il nostro amico che ci ha chiamato per farci un po' per raccontarci di questo suo innamoramento per il sapone di Aleppo, che utilizza proprio Total Body, dalla testa ai piedi, capelli, che io barba. Te abbiamo comprato la fiera dell'artigianato. E anche devo dire che a me piace il sapone di Aleppo. Professor Di Pietro, le piace? Allora, il sapone di Aleppo è accomunato anche un po' al sapone di Marsiglia, sono dei saponi secolari, cioè si utilizzano da moltissimi anni, non perché deve stare un secolo in bagno in particolare insomma, ecco, poi quindi è sicuramente una buona soluzione per chi vuole lavarsi, anche in questo caso. Noi dermatologi abbiamo recentemente però osservato intolleranze anche al sapone di Aleppo, agli oli che vengono utilizzati, che non da tutti sono tollerati, e abbiamo osservato anche qualche caso di reazione allergica anche da sapone di Aleppo. Quindi, ecco, diciamo, questo nulla dobbiamo, è sicuro, nulla però, è sicuro al giorno d'oggi. Però il sapone di Aleppo direi che è tra quelli più tollerati, quindi è un'ottima soluzione. Andiamo alla dermatite seborroica del nostro, del figlio del nostro primo ascoltatore, che a differenza del nostro ragazzo di Firenze, la doccia se la fa tutti i giorni, e anche una dermatite seborroica sul cuoio capelluto, e quindi che ha un effetto simile un po' a quello della forfora. La dermatite seborroica, che poi è la principale causa di forfora, perché ricordiamo, la dermatite seborroica si manifesta con una desquamazione, quindi una sorta di forfora, un po' di prurito, soprattutto sul cuoio capelluto e poi anche sul volto, sul viso. Può peggiorare se si utilizzano degli shampoo troppo aggressivi, inadatti, che indeboliscono ancora di più il cuoio capelluto e possono peggiorare la dermatite seborroica. In questi casi le novità sono soprattutto rivolte a sostanze che tendono a regolarizzare l'attività della ghiandola del sebo e a fortificare anche la superficie cutanea. Una di queste sostanze, noi ormai la utilizziamo da un paio d'anni e con ottimi successi, è rappresentato dalla alluchina. Ne avevamo già parlato perché siamo avanti a cuore denari, siamo... E la luchina oramai rappresenta una sostanza molto utile sia negli sciampi, ci sono degli sciampi che la contengono, ma anche delle lozioni che riescono ad eliminare in modo efficace, in modo naturale, la dermatite seborroica. Tra l'altro, utilizzando una sostanza molto nota anche questa nei secoli, che è il vecchio allume. Ecco, la luchina è un composto che è formato da allume e da un derivato della liquirizia, e questa è una sostanza piuttosto utile per la dermatite seborroica, che in estate però dovrebbe migliorare, per cui arrivano dei tempi migliori. In estate tende a migliorare, funziona abbastanza. C'è un miglioramento già naturale della situazione. A proposito dell'estate, del bagnarsi, ricordiamo che le docce con acqua dolce invece diventano importanti quando facciamo il bagno in mare, per eliminare il sale e per eliminare anche quelle piccole quantità di gasolio, di oli combusti, che vengono buttati fuori dagli scarichi dei fuoribordo, dei motori delle barche, dove spesso nelle prossimità di barche, gommoni, noi poi facciamo il bagno, anche se andiamo in una caletta deserta, ci arriviamo col gommone. Mi sembrano così lontani ancora, professor Di Pietro, quei tempi in cui potremmo fare sguazzare un po' in mare, ma ci arriveremo. Non riusciamo ad arrivare, ma dedicheremo un capitolo al deodorante, perché ci piovono domande sui vari tipi di sapone. Sapone allo zolfo, chiede un ascoltatore via SMS, ma abbiamo anche Anna Paola da Roma. Zolfo, sapone allo zolfo, sì o no? Lo zolfo era molto in voga, molto di moda fino a 15-20 anni fa. Ultimamente noi dermatologi l'abbiamo un po' messo da parte, perché il sapone allo zolfo tende ad eliminare in maniera eccessiva quel film di sebo, e quindi quel film di grasso che c'è sulla nostra pelle, che invece ci protegge dall'acqua e dall'umidità. Il sapone allo zolfo sgrassa troppo, asciuga anche molto la pelle. In genere si utilizzava soprattutto per la pelle grassa, per l'acne, ma sgrassando troppo la cute, alla fine si ha un effetto rebound, cioè di ritorno del sebo, del grasso, peggio di prima. Ecco, quindi zolfo no grazie. Controproducente, per cui i saponi allo zolfo sono stati un po' messi al bando. Anna Paola, buongiorno da Roma. Andiamo ad un bambino piccino. Sì, ha 3 anni e mezzo. E le spiego qual è il problema. Ha una pelle un po' delicata e quando facciamo lo shampoo, lui, anche se lo allunghiamo un pochino, se usiamo lo shampoo per i bambini tipo Johnson, e comunque lui dopo un po' comincia a grattarsi la testa. E abbiamo provato vari tipi di shampoo, ma diluendolo, non, sciacquandolo bene, perché sciacquandolo bene, diluendolo, mettendone proprio pochissimo. Allora Anna Paola, la stringo per dare spazio al professor Di Pietro, che così può dare indicazioni alle mamme all'ascolto. Olivia, professore. Sì, beh, direi che in questi casi gli oli shampoo la fanno da padrone, quindi gli shampoo sono stati messi un po' al bando, soprattutto nei bambini molto piccoli. Ci sono questi oli che riescono a detergere bene il capello, il cuoio capelluto. Nel caso dei bambini, io direi alle mamme di provare anche ad utilizzare l'olio di sesamo e strofinarlo delicatamente sul cuoio capelluto. È ricco di omega 3, quindi lascia i capelli piuttosto morbidi. Sulla testa dei bambini non c'è ancora il sebo che insomma può contrastare e quindi frenare l'effetto e può essere utile. Dai, un olio di sebo. Negli adulti invece gli shampoo con la lucchina riescono a risolvere abbastanza bene il problema, perché riequilibrano il cuoio capelluto e in questi casi sono efficaci. Ma dove andremo? Sempre più belli. Professor Di Pietro, lei deve venire qui, perché noi facciamo le dirette Facebook. Esatto. E i suoi moltissimi ammiratori potrebbero vederla. L'aspettiamo. Va bene, promesso, verrò di promesso, sicuro. Promesso, e noi promesso. Bello, elegante, profumato. Bello. Noi promesso torniamo domani alle 10.30. Altro che, ci siamo. Buona giornata a tutti.